cambio. Lo so che siete in altre, ma porca miseria, almeno qua qualcuno. Dove mai sei qua? Non si sentito chiamare, sono da qua, ho sentito chiamare, non c'è più nessuno su qua, tutti morti. E già lo so, intanto ci provo. Dunque mi tocca solo fare radioascolto, tutto lì. Ma si te l'ascoltano da qualche altra parte. Già ce l'ho l'attestato per radioascolto, sì, cerca che ho trovato. Tutto lì, almeno un po' di compagnia, tanto in televisione non c'è niente, in televisione non c'è mai niente, dunque almeno un po' di compagnia, me la fa qualcuno quando parla di qualche cosa di diverso, tutto lì. Bravo, bravo, perché che sono da altre parti a dire male con il microfono. Già lo so, è vero che stai allenando abbastanza, dai, ormai la mano tu già te l'hai presa, io ho voglia. Stai ascoltando, sì. Attento Gianni, doppio rum, Gianni, sento Gianni doppio rum, Gianni, attento doppio, Gianni doppio rum, ci sei? Ah? Gianni, attaccati già! Gianni doppio rum? Attento Gianni, 1, 2, 3. Perché? Gianni! Nessuno, attento Gianni, si è ricevuto la chiamata a cambio. Attento Gianni, se mi copi 123, 123, 123. Ora, attenzione sul canale 10, 123, c'è qualcuno, cambio. Prova. Gianni, rispondi al telefono. Attento Gianni, doppio room, rispondi al telefono, cambio. Attento Gianni, se mi copi, cambio. Ma ci sei già? Gianni, ci sei? Attenzione sul canale 10, prego. Attenzione sul 10, prego. Attenzione sul canale 10. Prego. Attento Gianni, se ci sei. Ciao già, parla cura. Fui Antonio, sto bene. E tu, io sei poco potente. Mi racco qualche superstite. Cosa Antonio? Come già, scusa, ho abbassato il volume, ho sbagliato, sto regolando un'altra cosa. Un attimino che mi metto le cuffie. Mi devo attenzare un po' perché sennò mi disturbo qua. Via. Buonasera. Oh, buonasera anche a te, ben intendi tu. Ma scusa, da lì. Forte chiaro. Non va bene. Come mai c'è questa mania dell'abbandono? Ma sei più nuda. Diciamo proprio che dice volere e potere. Ciao Luca, buonasera. Quello già è vero, infatti ogni giorno provo e via. Poi ti dico una cosettina già, un altro momento, dai. Pure io provo, però magari non coincidono gli orari, Antonio, ti ho chiamato anche per due volte, non voglio disturbarti, magari stai lavorando, capito? Mi dà anche fastidio. No, è per quel giorno che mi ha dato il messaggio, stavo facendo un trasloco esattamente di lunedì, se ti ricordi bene, ed era Valghero, da Sasso del Valghero. Non è un disturbo, infatti l'ho scritto e mi già, scusa, non ci sono, invece c'è un traslochino, una giornata me l'ho fatta, ecco, tutto lì, ma quella sera già sono libero. Poi ti ho dato anche un colpo di telefono, non riuscivo a scrivere i messaggi, il suo telefonino è un po' imballato, dunque ti ho fatto due squilli e poi ho chiuso anche, ho fatto squilli a Pomponio, ma non mi ha risposto neanche lui, tutto lì, ci ho provato, ecco. Magari ero lontano dal telefono, dai. Ciao Lucrezia, avanti. Purtroppo non c'è più nessuno, capito Antonio? E non sono, lo metto in dubbio, non c'è più nessuno, ma potremmo esserci noi, tutto lì. Non sono di grande compagnia, almeno, se continuo a usare il baracchino, è tutto lì. Vabbè, sono d'accordo con te, però il problema è che la Cina non c'è nessuno. Non la Cina fa. Io l'ho acceso adesso, è il primo aspetto, ma adesso l'ho acceso, vediamo un po' chi c'è. L'ho lasciato da adesso, poco fa, eh. L'ho lasciato, se non lo... una mezz'oretta, così. Poi io... ho visto non c'era nemmeno il 5, stamattina, che stamattina l'ho acceso, ma acceso e spento. Poi non c'era un'anima. Che lo prendo a fare acceso. Meglio rimanere spento. Ma se vi ho sentito sono entrato a salutarvi, ma comunque. Ma io per caso mi ero al PC, ho acceso, ho girato come ho girato, senza attenzione gialli. Ed ero io, sì. Sono entrato. No. Ma io tutte le sere ci provo, guardo, come vedo non c'è solo tu spengo subito, non sto manco a parlare di te, perché mi innervosisce sentire quel REM. Ma metto al computer o mi guardo di Max, qualche cosa la faccio. Io, ma porca miseria, almeno quei pochi che siamo rimasti, uno dice continuiamo a usarlo, tutto lì, a cercare di tenerlo vivo, almeno pochi, ma buono, tutto lì, cosa vuoi fare altro? Ma tenerlo a casa, nello spento, abbandonato, non è tanto bello, Non è bello, no, a volte prego. Oggi sto per salutarvi, ciao Gianni, Fabrizio da questa parte. Non c'è più nessuno qua, adesso vi ho sentito, sto per salutarvi, Gianni. Qui c'è, poco fa ci siamo già salutati, lo sentendo. Anche Lucariello mi sembra di aver sentito. Ciao Fabrizio, buonasera, mi hai sentito anche a te, dai. Siamo io, Antonello, di Ossi e Luca del Monte, avanti. Ecco chi dà, ciao Fabri. Vabbè, niente, dai, io adesso mi assento, c'ho fame, ci sentiamo dopo se ci sente. Sono anche al computer, sto facendo roba. Casomai a dopo, a te Antonio, vai. E io non c'è problema, nel caso se vuoi attaccare già siamo qua. Già siamo, se dura ancora la situazione, tutto lì. Ok, dai, no, ritengo che faccio una cosa su internet. Ascolta, se interessa qualcuno, io sto vendendo questo Galaxy Saturn col microfono ZHMQ5, non questo è il Kenwood, quello che utilizzo, che Gianni già conosce, è in ottime condizioni, perfetto, devo c'è lavoro tutto ricontrollato, eccetera eccetera, 200 euro col microfono sto dando, se senti qualcuno, se qualcuno gli interessa, sapete dove trovarmi. Andrà bene Fabri, so che anche Claudio sta prendendo tutto. No, io non sto vedendo tutto, mi serve spazio qua, perché lì tu non sono venuto a casa, ma c'è un ripiano dove c'è questo apparecchio che mi serve per metterci delle altre apparecchiature che devo acquistare, quindi non ho spazio, se no non avrei dato la verità, se avessi avuto una stanza dedicata, quindi per forza lo devo fare fuori, se no tolgo da lì e lo metto da parte, mi dispiace non viene usato, capito? Quindi se senti qualcuno che serve è in vendita, 200 euro proprio svenduto col microfono ZHMB+5. Pagappa, va bene Fabrizio, sarà fatto, avanti Antonio. Io volentieri, ma ce l'ho già le Galaxy, già è sempre qua con me vicino, le MB+4, le +5, volentieri, se non l'avrei avuto l'avrei preso volentieri. Sì, no, questo è le MB+5 con i tuoni, l'apparecchio è questo qua, abbiamo corsa, quando se lo attacco lo senti, va con una bomba. C'è il doppio modulatore, l'M80 montato sotto, ha modificato i tuni perché era preso di banda, quindi c'è aperto di banda come mi sembra, adesso non lo ricordo, adesso comunque è aperto di banda e poi quella c'ha dei canali aggiuntivi con una levetta, puoi mettere e togliere qualche cosa in più, c'è cioè, l'avevo fatto un po' di modifiche. Guarda, adesso lo attacco per vedere se fa ancora un attimo. Vabbè, sta avendo anche un po' di basi, Claudio, mi ha detto che sta prendendo tutti i baracchini, piccoli, grandi, alimentatuba, coso lineare, c'è tutto qua. Vai già. Sempre per farsi spazio, perché gli devono arrivare due apparecchi. Tutta la collezione vuole, ci ha messo sacco e sale. Tante ricerche tutto quanto, adesso le vuole vendere. Così è. KK, c'è la Fayette, Tokai, ne ha pochi di apparati. C'è il Ruiz che è molto bello. Poi neanche per la macchina un bel po'. No, a me non interessa dire la verità perché ho questi qua e poi col flusso di gente che c'è non compro altra roba, semmai la vendo piuttosto che comprarla. E non mi interessano, se no se me l'avessi detto prima quando c'era un po' di gente a Puglia. Quello sì, ma cosa? Ascolta, volevo chiedere, ma tu il telefono vicino non ce l'hai? Sì, lo prendo Antonio, non c'è problema. E fai la cortesia. Ah, attento Gianni, è scaduto il credito già, ciao già, ci sentiamo, buonanotte, sempre se sei scollegato sul canale 10.